Le piacevoli notti, libro primo, Giovan Francesco Straparola. Terza favola della prima notte. Questa è una registrazione LibriVox. Tutte le registrazioni LibriVox sono di dominio pubblico. Per maggiori informazioni o per diventare volontari, visitate il sito LibriVox.org. Registrazione di Marzia Marianera. Cateruzza conobbe che a lei toccava il terzo arringo della prima notte, onde, con il viso allegro in tal maniera, a dire incominciò. Favola terza. Pre Scarpacifico da tre malandini una sol volta gabbato, tre fiate gabba loro, e finalmente vittorioso con la sua Nina lietamente rimane. Il fine della favola, da Alteria precedentemente raccontata, mi dà materia di dovere raccontarne una, la quale vi fia non men piacevole che grata, ma sarà differente in uno, che in quella pre Severino fu da Cassandrino gabbato, ma in questa pre Scarpacifico più volte gabbò coloro che lui gabbare credevano, sì come nel discorso della mia favola appieno intenderete. Appresso Imola, città vendichevole e da nostri tempi dalle parti quasi ridotta all'ultimo esterminio, trovasi una villa chiamata Postema, nella cui chiesa ufficiava nei tempi passati un prete nominato pre Scarpacifico, uomo nel vero ricco, ma oltremodo misero ed avaro. Costui per suo governo teneva una femmina scaltrita ed assai sagace, Nina chiamata, ed era sì aveduta che uomo non si trovava che ella non ardisse di dirgli ciò che bisognava. E perché ella era fedele e prudentemente governava le cose sue, la teneva molto cara. Il buon prete, mentre fu giovane, fu uno di quelli gagliardi uomini che nel territorio imolese si trovasse. Ma, giunto all'estrema vecchiezza, non poteva più sopportare la fatica del camminare a piedi. Laonde la buona femmina più e più volte lo persuase che un cavallo comperar dovesse, a ciò che nell'andare tanto a piedi la vita sua innanzi ora non terminasse. Pre Scarpacifico, vinto dalle preghiere e dalle persuasioni della sua fante, se ne andò un giorno al mercato e, adocchiato un muletto che alle sue bisogne pareva li convenevole, per 7 fiorini d'oro lo comperò. Avvenne che a quel mercato erano 3 buoni compagnoni, i quali più dell'altrui che del suo, sì come anche a moderni tempi si usa, si dilettavano vivere. E, veduto che ebbero Pre Scarpacifico avere il muletto comperato, disse uno di loro: «Compagni miei, voglio che quel muletto sia nostro». «E come?» dissero gli altri. «Voglio che noi ci andiamo alla strada dove egli ha a passare e che l'uno stia lontano dall'altro 1/4 miglio, e ciascaduno di noi separatamente gli dirà il muletto da lui comperato essere un asino. E se noi saremo fermi in questo detto, il muletto agevolmente sarà nostro». E partitisi di comune accordo, s'acconciorono sulla strada sì come tra loro avevano deliberato, e, passando pre Scarpacifico, l'uno dei masnadieri, fingendo d'altrove che dal mercato venire, gli disse: «Iddio vi salvi, messere!» A cui rispose pre Scarpacifico: «Ben venga il mio fratello». «E di dove venite voi?» disse il masnadiere. «Dal mercato», rispose il prete. «E che avete voi di bello comprato?» disse il compagnone. «Questo muletto», disse il prete. «Qual muletto?» disse il masnadiere. «Questo che ora cavalco», rispose il prete. «Dite voi da dov'ero, ovvero burlate meco?» «E perché?» disse il prete. «Perciò che non un mulo, ma un asino mi pare». «Come asino?» disse il prete. E, senz'altro dire, frettolosamente seguì il suo cammino. Né appena cavalcato aveva 2 tratte d'arco, che se li fe incontro l'altro compagno e disseli: «Buongiorno, messere, e di dove venite voi?» «Dal mercato», rispose il prete. «Vi è bel mercato?» disse il compagno. «Sì, bene», rispose il prete. «Avete fatta voi alcuna buona spesa?» chiese il compagnone. «Sì», rispose il prete. «Ho comperato questo muletto che ora tu vedi». «Dite il vero?» disse il buon compagno. «Avetelo voi comperato per un mulo?» «Sì», rispose il prete. «Ma, in verità, egli è un asino», disse il buon compagno. «Come un asino?» disse il prete. «Se più alcuno me lo dice, voglio di esso fargli un presente». e seguendo il suo camino si incontrò nel terzo compagno, il quale gli disse: «Ben venga il mio messere, dovete per avventura venir dal mercato voi?» «Sì», rispose il prete. «Ma che avete comperato voi di bello?» disse il buon compagno. «Ho fatto una spesa di questo muletto che tu vedi.» «Come muletto?» disse il compagnone. «Dite da dovero o ver burlate voi?» «Io dico da dovero e non burlo», rispose il buon prete. «Oh, pover'uomo!» disse il masnadiero. «Non vi avvedete che egli è un asino e non muletto? Oh, ghiotti, come bene gabbato vi hanno!» Il che intendendo, Pre Scarpacifico disse: «Ancor due altri poco fa me l'hanno detto, ed io non credevo». E, sceso giù dal muletto, disse: «Piglialo, che di lui io ti fo un presente». Il compagno, presolo e ringraziatolo della cortesia, ai compagni se ne tornò, lasciando il prete andare alla pedona. Pre Scarpacifico, giunto che fu a casa, disse alla Nina come egli aveva comperato una cavalcatura, e credendosi aver comperato un muletto, aveva comperato un asino, e perché per strada molti ciò detto gli avevano, all'ultimo n'aveva fatto un presente. Disse la Nina: «Oh, cristianello, non vi avvedete che li vi hanno fatto una beffa? Io mi pensavo che voi foste più scaltro di quello che voi siete. Alla mia fe che elli non mi arrebbeno ingannata». Disse allora Pre Scarpacifico: «Non ti affannare di questo, che se egli me ne hanno fatta una, io gliene farò due, e non dubitare. Perciò che essi, che ingannato mi hanno, non si contenteranno di questo, anzi, con nuova astuzia, verranno a vedere se potranno cavarmi alcuna cosa dalle mani». Era nella villa un contadino non molto lontano dalla casa del prete, ed aveva, tra l'altre, due capre che si somigliavano sì che l'una dall'altra agevolmente conoscer non si poteva. Il prete fece di quelle due mercato, ed a contanti le comperò. E venuto il giorno seguente, ordinò alla Nina che apparecchiasse un bel desinare, perciò che voleva alcuni suoi amici venissero a mangiar con esso lui. E l'impose che ella togliesse certa carne di vitello e la lessasse, e di polli e il lombo arrostisse. Dopo le sporse alcune spezie, ed ordinolle che gli facesse un saporetto ed una torta, secondo il modo che ella era solita fare. Poscia il prete prese una delle capre e legolla ad un siepe nel cortile, dandole da mangiare, e l'altra legolla con un capestro, e con esso lei al mercato se n'andò. Né fu sì tosto giunto al mercato che i tre compagni dell'asino l'ebbero veduto, e accostatisi a lui dissero: «Ben venga il nostro messere, e che andate voi facendo? Volete voi comperare alcuna cosa di bello?» A cui rispose il messere: «Io me ne sono venuto costì per rispendere, perciò che alcuni miei amici verranno a desinare oggi meco, e quando vi fosse a grado di venire ancora voi, mi fareste piacere». I buoni compagni molto volentieri accettarono lo invito. Pre Scarpacifico, fatta la spesa che bisognava, mise tutte quelle robe comperate sopra il dorso della capra, ed in presenza dei tre compagni disse alla capra: «Va a casa, e di alla Nina che lessi questo vitello, e il lombo e li polli arrostisca, e dille che con queste spezie la faccio una buona torta ed alcuno saporetto secondo l'usanza nostra. Hai tu ben inteso? Or vattene in pace». La capra, carica di quelle robe e lasciata in libertà, si partì, ma nelle cui mani capitasse non si sa. Ma il prete ed i tre compagni ed alcuni suoi amici intorniorono il mercato, e parendoli l'ora se n'andarono a casa del prete. Ed entrati nella corte, subito i compagni balcorono la capra legata al siepe che l'erbe pasciute ruminava, e credettero che essa fosse quella che il prete con le robe aveva mandata a casa. E molto si maravigiorono. E, entrati tutti insieme in casa, disse Pre Scarpacifico alla Nina: «Nina, hai tu fatto quello che io ti ho mandato a dire per la capra?» Ed ella, accorta ed intendendo quello che voleva dire il prete, rispose: «Messer sì, io ho arrostito il lombo di polli e lessata la carne di vitello. Appresso questo ho fatto la torta e il saporetto con delle spezie per dentro, sì come mi disse la capra». «Sta bene», disse il prete. I tre compagni, vedendo il rosto, il lesso e la torta al fuoco, ed avendo udite le parole della Nina, molto più che prima si maravigliarono, e tra loro cominciorono pensare sopra della capra, come averla potessino, venuta la fine del desinare, ed avendo molto pensato di furar la capra e di gabbare il prete, e vedendo non poterne riuscire, dissero: «Messere, noi vogliamo che voi ne vendiate quella capra». A cui rispose il buon prete non volerla vendere, perché non vi erano danari che la pagassino. E, pur quando egli la volessero, 50 fiorini d'oro l'apprezzava. I buoni compagni, credendosi aver rubati i panni franceschi, subito gli annoverorono i 50 fiorini d'oro. «Ma avvertite», disse il prete, «che non vi dogliate poi di me, perciò che la capra, non conoscendovi in questi primi giorni, per non essere assuefatta con esso voi, forse non farà l'effetto che fare dovrebbe». Ma i compagni, senza altra risposta darli, con somma allegrezza condussero la capra a casa e dissero alle loro mogli: «Dimane non apparecchierete altro da desinare, fino a tanto che noi non lo mandiamo a casa». E, andatisene in piazza, comperorono polli ed altre cose che facevano bisogno a loro mangiare, e postele sopra il dorso della capra che seco condotta avevano, la maestrarono di tutto quello che ei volevano che facesse, e alle loro mogli dicesse: «La capra, carica di vettovaria, essendo in libertà, si partì, e andossene in tanta buon'ora, che mai più la videro». Venuta l'ora del desinare, i buoni compagni ritornarono a casa, ed addimandarono le loro mogli se la capra era venuta con la vettovaria a casa, e se affatto avevano quello che ella detto gli aveva. Risposero le donne: «O sciocchi e privi d'intelletto, voi vi persuadete che una bestia debba fare i servigi vostri? Certo ve ne restate ingannati, perciò che voi volete ogni giorno gabbare altrui, ed alla fine voi rimanete gabbati». I compagnoni, vedendosi derisi dal prete ed aver tratti i 50 fiorini d'oro, s'accesero di tanto furore che al tutto lo volevano per uomo morto, e prese le sue arme, a trovarlo se n'andarono. Ma lo sagace pre Scarpacifico, che non stava senza sospetto della sua vita ed aveva sempre i compagni innanzi gli occhi che non li fessero alcun dispiacere, disse alla sua fante: «Nina, piglia questa vescica piena di sangue e ponela sotto il guarnello, perciò che, venendo questi malandrini, darotti la colpa del tutto, e fingendo di esser teco adirato, tirerotti con questo coltello un colpo nella vescica, e tu, non altrimenti che se morta fosti, a terra caderai, e poi lascialo carico a me». Né appena pre Scarpacifico aveva finite le parole con la fante, che sopraggiunsero i malandrini, i quali corsero addosso al prete per ucciderlo. Ma il prete disse: «Fratelli, non so la cagione perché voi mi vogliate offendere. Forse questa mia fante vi debbe aver fatto alcun dispiacere, e io non so». E voltatosi contro lei, mise mano al coltello, e tirolle di punta e ferilla nella vescica che era piena di sangue. Ed ella, fingendo di esser morta, in terra cadè. Ed il sangue come un ruscello d'ogni parte correva. Poscia il prete, veggendo il caso strano, finse di esser pentuto, e ad alta voce cominciò a gridare: «Oh, misero ed infelice me! Che ho fatto io? Oh, come scioccamente ho ucciso costei che era il bastone della vecchiezza mia! Come potrò io più viver senza lei?» E, presa una piva, fatta al modo suo, levolle i panni e gliela pose fra le natiche, e tanto dentro soffiò che la Nina rinvenne, e sana e salva saltò in piedi. Il che, vedendo i malandrini, restarono attoniti, e, messo da canto ogni furore, comprorono la piva per fiorini 200, e lieti a casa ritornorono. Avvenne che un giorno un de malandrini fece parole con la sua moglie, ed in quel sdegno le ficcò il coltello nel petto, per la cui botta ella se ne morì. Il marito prese la piva comperata dal prete, e gliela mise tra le natiche, e fece sì come il prete aveva fatto, sperando che ritornasse viva. Ma invano, s'affaticava in spargere il fiato, perciò che la misera alma era partita di questa vita, e se n'era ita all'altra. L'altro compagno, vedendo questo, disse: «Oh, sciocco, tu non hai saputo ben fare, lascia un poco fare a me». E presa la propria moglie per i capelli, con un rasoio le tagliò le canne della gola. Dopo, tolta la piva, le soffiò nel martino, ma per questo la meschina non resuscitò. E parimente fece il terzo, e così tutta tre rimasero privi delle loro mogli. Laonde sdegnati, andarono a casa del prete, e non volsero più udire le sue fole, ma lo presero e lo posero in un sacco con animo di affogarlo nel vicino fiume. e mentre che i malandrini lo portavano per attuffarlo nel fiume, sopraggiunse non so che ai malandrini, onde forza li fu metter giù il prete che era nel sacco strettamente legato e fuggirsene. In questo mezzo che il prete stava chiuso nel sacco, per avventura indi passò un pecoraro col suo gregge la minuta erba pascendo, e così pascolando udì una lamentevole voce che diceva: «I me la voglio pur dare ed io non la voglio, che io prete sono e prendere non la posso». E tutto sbigottito rimase, perciò che non poteva sapere donde venisse quella voce tante volte ripetita. E, voltatosi or quinci or quindi, finalmente vide il sacco nel quale il prete era legato. Ed accostatosi al sacco, tuttavia il prete vociferando forte, lo sciolse e trovò il prete. Ed addimandatolo per qual causa fusse nel sacco chiuso, e così altamente gridasse, gli rispose che il signore della città gli voleva dar per moglie una sua figliuola, ma che egli non la voleva, sì perché era attempato, sì anche perché di ragione avere non la poteva per esser prete. Il pastorello, che pienamente dava fede alle finte parole del prete, disse: «Credete voi, messere, che il signore a me la desse?» «Io credo di sì», disse il prete, «quando tu fosti in questo sacco, siccome io era, legato». E messosi il pastorello nel sacco, egli strettamente lo legò e con le pecore da quel luogo si allontanò. Non era passata un'ora che i tre malandrini ritornorono al luogo dove avevano lasciato il prete nel sacco e, senza guatarvi dentro, presero il sacco in spalla e nel fiume lo gittorno. E così il pastorello, invece del prete, la sua vita miseramente finì. Partitisi, i malandrini presero il camino verso la lor casa e, ragionando insieme, videro le pecore che non molto lontano pascevano, onde deliberorono di rubare un paio di agnelli, e accostatisi al gregge videro pre Scarpacifico che era di loro il pastore, e si maravigliarono molto, perciò che pensavano che nel fiume annegato si fosse. Onde la dimandorono: «Come aveva fatto ad uscire dal fiume?» Ai quali rispose il prete: «Oh pazzi, voi non sapete nulla! Se voi più sotto m'affocavate, con 10 volte artante pecore di sopra me ne veniva». Il che udendo, i tre compagni dissero: «Messere, volete voi farne questo beneficio? Voi ne porrete nei sacchi e ne gitterete nel fiume, e, di masnadieri, custodi di pecore diverremo». Disse il prete: «Io sono apparecchiato a fare tutto quello che vi aggrada, e non è cosa in questo mondo che volentieri non la facessi». E trovati tre buoni sacconi di ferma e fissa cavenazza, li puose dentro, e strettamente, che uscir non potessero, li legò, e nel fiume li avventò. E così infelicemente se n'andarono le anime loro ai luoghi bugi dove sentono eterno dolore, e pre Scarpacifico, ricco e di danari e di pecore, ritornò a casa, e con la sua Nina, ancora alquanti anni, allegramente visse. Fine della storia. La favola, da Cateruzza raccontata, a tutta la compagnia molto piacque, e sommamente tutti la commendarono. Ma vi è più la sagacità e astuzia dell'ingegnoso prete, il quale, pur aver donato un muletto, acquistò molti danari e pecore, e, vendicata l'ingiuria dei suoi nemici, lieto con la sua Nina rimase. Ed a ciò che non si sconciasse l'incominciato ordine, in questa guisa il suo enimma propose. Stava ad un desco un fabbro la mogliera, con un sol pane intiero in mezzo appena. Con la sorella, in pretin sulla sera, quattro si ritrovarono a quella cena. Tre parti fer del pane, e più non vera, e tutti quattro con faccia serena, godendo la lor parte, fur contenti. Non so tu, che m'ascolti, quel che senti. Finito il sentenzioso enimma da Cateruzza raccontato e da tutti con somma ammirazione atteso, non trovandosi veruno in sì ingegnosa compagnia che della dura scorsa il vero senso traere sapesse, disse Cateruzza: «Piacevoli donne, il senso del mio enimma è che, trovandosi un fabbro avere per moglie la sorella d'un prete, ed essendosi ambedoi posti alla mensa per cenare, sopraggiunse il prete, e così erano quattro, cioè la moglie con il fabbro, suo marito, e la moglie del fabbro col prete, che le era fratello. Ed avvenga che paressero quattro, non di meno erano se non tre». E ciascuno di loro prese un pezzo di pane, e tutta tre contenti rimasero. Fine della terza favola della prima notte. Registrazione di Marzia Marianera.